Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo venerdì 20 dicembre, naturalmente qui inizia Radio Zanardi che poi confierà alle 9:30 sui giornali con me Andrea Utensili, ma subito invece Radio Bullet con l'equipe romana. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda, sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Canada, premier pronto a vietare la terapia di conversione degli omosessuali a etero. Stati Uniti brucia bandiera LGBTQ, 15 anni di carcere per crimine dell'odio. Gaza, ONU, 2,4 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria. Libano, nominato nuovo premier. Algeria, fumettista condannato a 3 mesi di prigione. Pakistan, un altro attacco contro un team per la vaccinazione contro la polio. Infine Afghanistan, per la prima volta una squadra di sole donne sminatrici viene nominata per un premio internazionale. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dal Venezuela. La Corte Suprema filo governativa ha annullato la decisione dell'Assemblea Nazionale, controllata dall'opposizione, di permettere ai parlamentari di votare virtualmente dopo che la repressione del governo ha spinto decine di parlamentari fuori dal paese o a nascondersi. Stati Uniti, 15 anni di carcere ad Adolfo Martinez, che ha bruciato una bandiera LGBTQ che sventolava fuori da una chiesa dell'Iowa. Arrestato a giugno, è stato condannato a novembre per crimine dell'odio. Ieri la sentenza. Canada e i cristiani di estrema destra stanno impazzendo dopo che il primo ministro Trudeau ha chiesto un bando nazionale per la terapia di conversione da omosessuale a etero. Siti conservatori come The Blaze e LifeSite News sostengono che il divieto criminalizzerebbe la preghiera, eliminerebbe lo status di esenzione fiscale delle chiese, chiuderebbe le scuole cristiane, designerebbe le organizzazioni cristiane come gruppi di odio e proibirebbe ai genitori cristiani di adottare bambini. L'American Medical Association invece ha annunciato che spingerà perché questo divieto venga attuato. Stai ascoltando Radio Bullets. Arabia Saudita, Riyadh, sarà dichiarata nel 2020 la prima capitale digitale del mondo arabo. Yemen, i colloqui negoziati dalle Nazioni Unite che stanno cercando di rilanciare una tregua nella città portuale di Hodeida si sono conclusi con un nuovo accordo per creare più corridoi umanitari. Hodeida è la città soccorso attraverso la quale scorre il 70% di tutto il cibo nello Yemen. L'accordo tra Houthi e il governo Hadi ha lo scopo di prevenire i danni al porto, creando una crisi alimentare di massa. Una buona notizia è che i combattimenti nella zona nelle ultime settimane sono diminuiti e le due parti hanno anche fatto un accordo locale sullo scambio di prigionieri a Taiz, suggerendo un'atmosfera più diplomatica di quanto si sia visto in gran parte della guerra. Siria, la lira turca è stata introdotta come moneta temporanea nella Siria del nord dai militari turchi, lo ha detto il governo provvisorio siriano, una sorta di entità politica delle opposizioni siriane in esilio sostenuta dalla Turchia. Libano. Former minister Hassan Diab became Lebanon's new prime minister on Thursday with backing from the Iran-backed group Hezbollah and its allies. Il presidente Aoun ha nominato premier incaricato ieri sera Hassan Diab, ingegnere, ex ministro dell'istruzione, professore universitario, dovrà formare un nuovo governo dopo 2 mesi di proteste. Il rimpiazzo di Saad Hariri è ora responsabile di formare un nuovo governo. Diab, che ha disperato bisogno bisogno di finanziamenti internazionali appoggiato da diverse fazioni, tra cui gli Hezbollah, movimento ritenuto terrorista da diverse nazioni, tra cui gli americani, Amal e il Free Patriotic Movement. Non è ancora chiaro, ma lo saprà presto, se Diab è accettabile per i manifestanti che in due mesi hanno fatto cadere il suo predecessore chiedendo una revisione dell'elite politica e la fine della corruzione che ha devastato il paese. Sono già esplose proteste a Tripoli e le forze di sicurezza hanno aumentato la loro presenza intorno alla casa di Diab. Gaza, un razzo è stato lanciato ieri sera verso il sud di Israele dalla striscia di Gaza, secondo in un paio di giorni. Il primo era stato intercettato dal sistema di difesa antimissilistico israeliano e poco dopo l'aviazione aveva colpito un sito di Hamas a Gaza. Ma restiamo nella striscia perché ieri il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per i territori palestinesi ha detto che 2.400.000 persone necessitano di assistenza, ma che le Nazioni Unite riescono a intervenire solo su 1,5 milioni per problemi finanziari. McGodrick ha detto che tra i bisogni c'è quello dell'assistenza sanitaria, acqua, tubature, protezione e rifugi. Il 65% dei palestinesi ha bisogno di aiuti umanitari e ha avuto esperienza di insicurezza alimentare. Libia, gli scontri si sono intensificati tra le forze fedeli al governo di accordo nazionale, internazionalmente riconosciuto, e le forze fedeli al rinnegato generale Khalifa Haftar a sud della capitale, Tripoli. L'agenzia turca Anadolu ha riferito che le forze di Haftar hanno attaccato la capitale da 11 posizioni, comprese le aree intorno all'aeroporto internazionale di Tripoli. Algeria continua la repressione contro il dissenso. Un noto vignettista, Ben Abdelhamid Amine, è stato condannato a 3 mesi di carcere per un'immagine satirica pubblicata sui social media come forma di protesta in relazione proprio all'elezione del neopresidente Abdelmajid Tabune. Nella vignetta si vede il capo dell'esercito algerino, Ahmed Gai Salah, che mette una scarpetta d'oro e al piede di Tebboune, ex primo ministro che ha vinto le elezioni il 12 dicembre scorso. Il fumetto evoca quello in cui molti algerini credono, che Tebboune sia un membro della vecchia elite politica. La sua vicinanza ai militari lo renda parte dello status quo. Intanto ha giurato il neopresidente Tebboune, mentre il movimento di protesta Hirak si confronta su come rispondere all'offerta di dialogo per porre fine a 8 mesi di crisi politica. Albania, terremoto 4.3 ieri poco dopo le 17. Stai ascoltando Radio Bullet. Russia, sparatoria alla sede dei servizi segreti a Mosca, 2 morti e 5 feriti, l'assalitore ucciso dalle forze di sicurezza. Restiamo in Russia perché la prima centrale nucleare galleggiante ha iniziato a fornire energia elettrica al distretto autonomo della Chukotka. La centrale sarà collegata alla rete di fornitura del riscaldamento della città di Pevke nel 2020. E ora andiamo in Afghanistan. Per la prima volta una squadra afghana di sminamento è stata nominata per un premio internazionale dalla Arms Control Association. Il team, ha spiegato Latifa Mohseni, vice capo del Dipartimento per gli Affari Sociali di Bamiyan, ha iniziato a lavorare 2 anni fa nella provincia di Bamiyan. La prima squadra di sminamento di sole donne dell'Afghanistan quest'anno ha completato il lavoro sulle mine antiuomo nella provincia di Bamiyan, rendendo Bamiyan la prima delle 34 province afghane a essere dichiarata libera dalle mine antiuomo. Queste donne sono state formate da un gruppo danese di sminamento come parte di un programma pilota del Servizio di Azione contro le Mine delle Nazioni Unite in collaborazione con la direzione dell'Afghanistan per il coordinamento delle miniere. Dal 2007 l'Associazione per il Controllo degli Armamenti ha nominato individui e istituzioni che nei 12 mesi precedenti hanno avanzato soluzioni efficaci per il controllo degli armamenti, la non proliferazione e il disarmo, e hanno aumentato la consapevolezza delle minacce poste dalle armi negli incidenti di massa. In un settore che è spesso incentrato su minacce e sfide, il nostro concorso mira a mettere in evidenza le numerose iniziative positive che aiutano a migliorare la pace e la sicurezza internazionale, si legge sul loro sito. Pakistan, uomini armati hanno ucciso almeno 2 agenti di polizia in un attacco contro un team di sicurezza per la vaccinazione contro la poliomielite nel nord-ovest del Pakistan, al confine con l'Afghanistan. Ennesima battuta d'arresto nella campagna nazionale per sradicare la malattia. Il personale faceva parte di una campagna antipolio a livello nazionale lanciata questa settimana con l'obiettivo di vaccinare decine di milioni di bambini in uno dei 2 soli paesi dove la malattia rimane endemica. L'attacco arriva durante un anno di devastanti lotte del Pakistan contro questa malattia, con almeno 104 casi segnalati nel 2019. Non vi è stata alcuna rivendicazione per le uccisioni di mercoledì, ma i talebani pakistani e altri militanti hanno preso di mira i vaccinatori della polio. In passato, le campagne di vaccinazione hanno affrontato per anni una resistenza testarda in Pakistan, con molti che si sono rifiutati di vaccinare i propri figli a causa della disinformazione e delle teorie di cospirazione. L'opposizione islamista a tutte le forme di vaccinazioni è cresciuta dopo che la CIA aveva organizzato una falsa campagna di vaccinazione nel tentativo di rintracciare l'ex leader di Al-Qaeda Osama Bin Laden nella città pakistana di Abbottabad. Ma mentre il Pakistan cerca di raggiungere l'obiettivo di eliminare la poliomielite dal suo territorio, è emersa una nuova sfida sotto forma del crescente movimento globale contro le vaccinazioni. India: almeno 2 persone sono morte per le proteste contro la nuova legge sulla cittadinanza, portando a 8 il bilancio delle vittime di questi giorni, mentre la polizia ha arrestato centinaia di persone e i servizi internet sono stati tagliati, ma la gente continua a sfidare il divieto di assembramento. Cina: l'ambasciatore cinese in Australia ha detto in quella che è una rara conferenza stampa che le notizie sulle violazioni dei diritti umani nei confronti della minoranza uigura nella Cina nord-occidentale sono assolutamente fake news. Chen Jingye ha respinto le accuse internazionali che accusano la Cina di trattenere in centri di rieducazione, ma in realtà sono di detenzione, più di 1 milione di uiguri musulmani nella regione dello Xinjiang nord-occidentale nel tentativo di cancellare la loro cultura. E concludiamo con l'Australia, dove non si placano gli incendi alla periferia di Sydney. 2 vigili del fuoco volontari sono morti ieri notte mentre combattevano contro le fiamme. Il premier Morrison ha tagliato corto le sue vacanze per tornare al lavoro. Migliaia di vigili del fuoco sono stati dispiegati per tentare di estinguere questi fuochi. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Vi ricordo che se volete sostenerci potete andare su radiobullets.com/sostienici. Appuntamento a lunedì con una nuova raffica di notizie. Get much higher. Come on, baby, light my fire. Light My Fire dei Doors. Ma veniamo invece al Cile, perché sono passati da già due mesi da quando sono cominciate le rivolte nel paese e i cambiamenti sociali promessi del presidente Piñera sono tutt'altro che arrivati. Quello che non manca invece è la repressione. Questo pomeriggio a Bologna ci sarà un incontro per parlare di questi temi. Ne abbiamo parlato allora con l'esule cileno David Muñoz Gutiérrez. La situazione è molto drammatica perché la repressione violenta del governo continua, le marce pacifiche della gente, della tavola sociale continuano, anche quelle nonostante stia arrivando il generale Estate, che vuol dire che come qua in luglio e agosto si vuotano le città, tutti vanno in ferie, ma per ora le manifestazioni continuano. Molto drammaticamente perché è aumentato il numero di vittime che hanno perso un occhio, militari, carabinieri lanciano dei liquidi, delle pallottole particolari che vanno direttamente in faccia e hanno fatto perdere un occhio o due a più di 300 persone ormai. I feriti sono tantissimi, le persone che sono in galera sono tantissimi, ci sono dei filmati in cui questi passano 3-4 carabinieri, prendono una persona che sta lì con una bandiera e la picchiano, la martorizzano e via. Ci sono state manifestazioni grandissime, anche una con la partecipazione degli Intigimani che praticamente ha riempito tutta quella strada che parte da quello che era Plaza Italia, che adesso si chiama Plaza della Dignità. Però contemporaneamente, perché è drammatica la cosa? Perché questo Parlamento, che non conta quasi niente in Cile perché essendo una repubblica presidenziale tutto parte dal presidente, continua a legislare, e cosa fa? Prende i progetti che le manda il presidente, che sono tutti tesi a criminalizzare le proteste. E quindi il presidente ha inviato al Parlamento un progetto di legge nel quale se tu sarai scoperto a lanciare una pietra, un carabiniero ti denuncia e hai 5 anni di carcere. Se blocchi il traffico nella strada si prevedono 5 anni di carcere. Se occupi una scuola 5 anni di carcere. Non è passata ovviamente l'accusa costituzionale contro Piñera, che è stato salvato dai socialdemocratici e dai democristiani. Il movimento non riesce a darsi una conduzione unitaria. In più questi parlamentari che avevano presentato un progetto in 12 punti per aprire la strada per discutere su una nuova Costituzione si è arenata, perché i parlamentari della destra hanno vinto nella Costituzione della Commissione Tecnica, che doveva stabilire come fare questi referendum, come fare queste elezioni per la Costituzione o meno, su argomenti particolari, come dire partecipazione delle donne, una partecipazione dei Mapuches, delle etnie, una partecipazione dei vari settori sociali, eccetera, eccetera. Quindi loro vogliono che se si fa questa discussione, che si ci farà questa votazione per stabilire una nuova Costituzione, deve essere fatta con il sistema elettorale con il quale si eleggono i parlamentari. Cioè nessuna garanzia che i settori sociali che stanno portando avanti le battaglie oggi siano rappresentati domani. Sul fronte sociale Piñera aveva promesso delle riforme quando scoppiarono le proteste, sì. È arrivato qualcosa oppure no? Ma sono tutte palliativi molto inconsistenti, una presa in giro tra l'altro, perché promette aumenti delle pensioni a quelli che hanno superato gli 80 anni, tutti palliativi che cercano di dividere tra l'altro la gente. Nessun attacco alle AFP, che sono le imprese che gestiscono il fondo, i fondi pensioni, nessuna promessa concreta sulle questioni del calo dei prezzi dei farmaci, nessuna promessa concreta per riformare il sistema sanitario, nessuna proposta concreta per riformare il sistema educazionale in Cile, perché ci sono tutte queste cose qui. Per trasformarle bisogna fare una legge nuova nel Parlamento, e per fare determinate leggi nel Parlamento le percentuali per poterla approvare sono altissime. 2/3, 4/7, eccetera, una serie di vincoli di questo genere. In Cile Pinochet ha lasciato una Costituzione che, se la destra non può fare le riforme, almeno li può ostacolare. Ci sarà però un'occasione a Bologna per discutere di questi temi, ce ne puoi parlare? Si è costituita una rete internazionale di Chile Despertò, si chiama, che sta in 150 città e in 130 e in 32 paesi del mondo. Noi, in quanto Cile depertò Italia, Bologna, abbiamo interpellato Amnesty International, che è andato in Cile e ha fatto un rapporto su quello che succede, che è successo, quello che loro hanno visto, e quindi loro hanno accettato di inviare qua il loro portavoce d'Italia, e venerdì alle ore 18 alla Casa dell'Angelo, via San Mammolo 24, si farà questa serata di discussione su quello che sta succedendo in Cile, a partire dal rapporto che farà questo portavoce di Amnesty International. Apro gli occhi, ti penso ed ho in mente te, ed ho in mente te. Io cammino per le strade, ma ho in mente te, ed ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Io lavoro più forte, ma ho in mente te. Ti penso ed ho in mente te, ed ho in mente te. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. Quindi Radio Danardi, 9:29 minuti di questo 20 dicembre, venerdì, e anche noi come manifesto vogliamo salutare una compagna che ci ha lasciato, Marisa Ombra, la ragazza del 43 sul fronte partigiano delle Langhe, così la ricorda Luciana Castellina dal manifesto. Dice, rispetto a lei era un po' più giovane, però la conosco, conosco perfettamente la sua vicenda. Comunque morta ieri all'età di 94 anni, Marisa Ombra, ricordiamo, la staffetta partigiana con le Brigate Garibaldi, protagonista delle battaglie delle donne e vicepresidente dell'ANPI. Come giovanissima staffetta partigiana, racconta ancora la Castellina, in una delle zone più intense e diffuse fu l'azione delle Brigate Garibaldi, cioè le Langhe. A battere macchina su una vecchia Remington, giornali e volantini poi riprodotti al ciclostile, Marisa, appena quindicenne, l'aveva imparato da suo padre prima ancora dell'8 settembre, perché è nella cucina della loro casa di Asti che si stampavano artigianalmente i fogli necessari per preparare i grandi scioperi antifascisti del marzo 43. Arrestato il padre, poi liberato dalla prigione da allora nei reparti partigiani, Marisa, la madre e la sorella si rifugiarono nelle Langhe per sfuggire alla rappresaglia fascista. Dice molto più recentemente la Castellina: ricordo quell'8 marzo al Quirinale anche per un'altra ragione, per la risposta data da Lidia Menapace a una giornalista che la intervistava presentandola come ex partigiana, e le rispose: scusi, sono ancora una partigiana. Una bella risposta, valevole per molte partigiane rimaste partigiane. Così era anche Marisa Ombra, fiera e combattiva. Era l'8 marzo di questa chiacchierata, era parecchio, racconta la Castellina, che non ci incontravamo. Mi raccontò della sua più recente esperienza come vicepresidente dell'ANPI, un ruolo che si meritava ed è stato importante per la situazione, perché Marisa Ombra ha reso più evidente il contributo delle donne alla resistenza. Tornammo anche a parlare della Bolognina, perché anche lei allora non era entrata nel partito, come era, che era succeduto al Partito Comunista Italiano. lassù sulle montagne, sventola bandiera nera. È morto un partigiano nel far la guerra. È morto un partigiano nel far la guerra. La meglio gioventù che finisce sottoterra. È morto, ma un altro partigiano oggi è risorto. Ma prima di morire tre volte ha pregato lasciandoci sul dolore, e poi è fuggito. La sua dura battaglia, tedeschi e fascisti fuori di Italia, tedeschi e fascisti per sempre fuori di Italia. Tutta forza, pietà è morta, gridiamo a tutta forza, pietà è morta. Modena City Rumbles, fuori i fascisti dall'Italia, adesso dice Fratelli d'Italia, è un po' diverso. Comunque andiamo alla pagina internazionale, perché C'è una notizia che può essere una bomba politica, diplomatica e così di unità nazionale per la Spagna o libertà per la Catalogna, secondo me la si pensi. Liberate Junqueras, la Corte dell'Unione Europea dà ragione all'indipendentista. Il Tribunale di Lussemburgo ammonisce la Spagna, l'eurodeputato gode dell'immunità in quanto eletto in Parlamento Europeo. E Schierra congeli con i negoziati col PSOE. Allora, questa è una buona notizia chiaramente non solo per Junqueras, che dovrà o dovrebbe, perché non so a questo punto come si comporterà la giustizia spagnola, dovrebbe uscire di galera. Una buona notizia per, anche per l'ex presidente catalano Puigdemont, eletto all'Eurocamera, perché anche lui ha fatto la stessa domanda di libertà di movimento, perché non solo bisogna uscire da galera secondo l'Unione Europea, ma si può anche girare in tutti gli stati del paese europeo, Spagna compresa, tant'è che Puigdemont dice la prossima convention la facciamo a Barcellona. E questo capisserebbe anche lo smacco tremendo per l'onore tra virgolette della destra monarchica spagnola, e allora diventa un fatto anche politico, perché una sentenza, come dice il manifesto che sto leggendo con Luca Tangredi Barone, che diventa una vittoria politica e anche morale per i repubblicani, come previsto è creduto in pieno nel difficile negoziato che Schierra Repubblicana sta portando avanti con i socialisti, cioè quello del partito di Junqueras, e a due giorni dal congresso in più sempre ieri l'attuale presidente catalano Quim Torra ha ricevuto l'altra attesa sentenza stravolta dal tribunale spagnolo, viene interdetto dai pubblici uffici per un anno e mezzo per non aver fatto applicare una decisione della giunta elettorale durante le elezioni di aprile. Torra si era rifiutato di staccare un cartello in appoggio ai prigionieri politici, tra cui appunto lo stesso Junqueras. Il presidente ricorrerà anche se la sua fiducia nella giustizia spagnola, dice, è nulla. Tra il fatto che a questo punto il PSOE è il partito di centrosinistra in Spagna, è stretto da una morsa: da una parte aver l'appoggio del partito di Schierra Repubblicana, che è fondamentale per avere una maggioranza, e dall'altra parte venire assediati dalla destra spagnola, che su questo naturalmente bercerà e non poco. Comunque dice la pagina di Corriere con Andrea Nicastro: immunità al leader catalano, lo schiaffo europeo alla Spagna, la Corte europea riabilita Oriol Junqueras, il vice di Puigdemont, che ora spera. Vengo invece all'India, che c'è questa grande protesta dei musulmani, sono tanti in India, in particolare nel Daghestan, nel Rajasthan al nord, per cui c'è questa legge fascista del partito indù integralista, per cui l'immigrazione non può essere musulmana in India. Allora cosa succede? Grandi proteste dalle università in particolare, quindi India, telefonini senza campo per fermare le proteste. Abbiamo sentito le cose tremende che succedono in Cile, ma anche in India evidentemente c'è tutta una repressione abbastanza feroce. Andiamo in ancora a proposito di paesi latinoamericani e golpe in Bolivia, che non vedo dei grandi democratici italiani lamentarsi per il golpe in Bolivia, di quelli democratici ovviamente tra virgolette, quelli che sembrano sempre la bocca di Hong Kong o altre cose. Dunque il vincitore delle ultime elezioni, Morales, forse non ha vinto la prima tornata, forse ha vinto, poi vincerà sicuramente la seconda, è in esilio. Chi ha perso sicuramente le elezioni è capo della giunta militare fascista, la Agnes, e allora per andare a votare cosa si fa? Si mettono in galera gli oppositori e quindi si pensa di vincere in questo modo, dicendo che poi si sono vinte elezioni democratiche. Claudia Fanti dice nel Bolivia post golpe dal manifesto: voto più vicino, ordinate la cattura di Morales. È arrivato il giorno del 14° anniversario della rivoluzione democratica e culturale avviata da Evo Morales, con la sua prima vittoria il 18 dicembre del 2005, l'annunciato ordine di cattura nei suoi confronti per i presunti reati di sedizione, terrorismo e finanziamento al terrorismo, sulla base di un audio in cui all'indomani del golpe una persona identificata come l'ex presidente incitava al telefono il concaliero Faustino Luca a realizzare blocchi stradali per impedire che nelle città entrasse il cibo. Naturalmente un audio più che sospetto, va da sé. Un regalo, quello del governo golpista, mirato a scongiurare il suo temuto ritorno nel paese, momento in cui, contro l'informazione del nuovo tribunale supremo elettorale, è già partita la convocazione per le prossime elezioni nel Bolivia. Sì, buongiorno Alfredo, buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori. Proseguiamo con le notizie dal mondo e passiamo ad Haiti, dove c'è una dichiarazione contro i caschi blu e i peacekeeper, un'inchiesta che li accusa di stupri appunto nell'isola di Haiti, tra Hispaniola, Haiti e questo territorio. L'inchiesta è stata condotta da ricercatori universitari americani ed europei e si pensa addirittura che persino il colera, l'epidemia che è scoppiata, è stata causata dai soccorritori, appunto i caschi blu dell'ONU. Un paio di anni fa, le stesse Nazioni Unite hanno fatto un atto di contrizione dirigente e di recente hanno rivelato di avere rimandato in patria 100 soldati dallo Sri Lanka che dal 2004 al 2007 avevano formato un giro di prostituzione con bambine inferiori ai 14 anni. Non risulta che siano stati puniti e questa era appunto l'inchiesta, ma ritorniamo in Europa, paura, delirio e mitra, attacco al palazzo degli 007 russi con morti nel cuore di Mosca. Un uomo armato di Kalashnikov apre il fuoco nel giorno dell'anniversario della polizia segreta, vittime un agente e l'assalitore, almeno 5 persone ferite. Per l'intelligence è un atto di terrorismo, non tutti i giornali sono concordi su questo tipo di notizia, pare che gli attentatori fossero più di uno, fino a 3. E non è ancora stata resa nota l'identità del killer e si sta indagando sui possibili legami con la Cecenia e la Siria. E praticamente ci troviamo all'interno del cuore della Mosca in attesa del Natale sulla via Lubianca, la via principale. L'azione è avvenuta intorno alle 18:10, ora di Mosca, in Bosca Lubianska, appunto la via, ha gettato il panico a migliaia di moscoviti che a quell'ora transitavano per il centro per gli acquisti di Natale. Secondo la versione ufficiale, a terra sono rimasti un agente di polizia, un assalitore e 5 sarebbero riferiti, almeno 2 dei quali agenti dell'FSB. Infatti era l'attacco a questa agenzia di controspionaggio, è praticamente l'equivalente moderno del KGB. Ancora altre notizie le andiamo a recuperare per quello che riguarda l'estero dalla stampa che riporta pagina 12, esattamente quello che diceva Alfredo poc'anzi sulla Spagna. E invece c'è una bella cronaca di Bernard Verly sulla Francia. La Francia ha dimenticato la sua anima sulle pensioni, solo grida, insulti e rabbia. I sindacati si sono opposti alla riforma di Macron prima di conoscerla. Il paese oggi è ignaro della sua inventiva e la politica e si ripiega sulle proteste sterili. Ognuno vive per fare lo sgambetto all'altro e si perde il senso delle sfide comuni. Abbiamo dato stampa, Carlino, e per quello che riguarda appunto l'estero c'è qualcosa anche su Repubblica che parla di Mosca e nel mirino appunto l'ex KGB e poi si passa a qualche novità sull'impeachment di Trump. Ora il mondo fa i conti con la Nuova America. Il presidente russo Putin è l'unico a esporsi a favore del leader degli Stati Uniti, ma in molti si chiedono se Donald Trump modificherà le sue scelte pur di finire la base e rafforzarsi. Anche il manifesto parla di sciopero in Francia, ma non lo fa come Bernard-Henri Lévy, che è il Sansonetti francese, ieri santo tardo, oggi un fascista, ma invece parla appunto della legge delle pensioni di Macron, che è contestata da un movimento che non si ferma. Ma andiamo invece a parlare di Putin, c'è anche un altro, Putin vuole restare all'infinito e apre al terzo mandato, conferenze di fine d'anno, il presidente interviene sugli USA, la messa in stato d'accusa è una lotta tra apparati a fare loro, dice, vi do la mia parola, Putin non ha avuto niente a fare con la Russia per le prossime elezioni passate. Parola di Putin, la parola di Putin poi dato è oro evidentemente, perché anche il Tempo oggi, parlando dell'Italia, vedremo un parallelo poi tra Putin e Salvini non ha visto un rublo, dice, ah, la prova è approvata, qual è la pistola fumante del Tempo. Berlusconi dice, ho incontrato Vladimir Putin e gli ho chiesto se i suoi avevano dato soldi alla Lega. Lui ha controllato e il giorno dopo mi ha telefonato per dirmi che non esisteva alcun finanziamento. Quindi, secondo Tempo, non ha preso un ghello, parola di Putin, naturalmente vale oro. Ma su questo Putin pensa al futuro, racconta il Corriere del Cremlino da Dragosè dal Corriere, modifica costituzionale per restare al governo, l'ipotesi sul dopo 2024, sia un accordo di pace in Libia, sì, quando abbiamo preso noi Tripoli con Haftar, ci dividiamo il petrolio, a questo punto hanno fatto un deserto, lo chiamiamo pace. Putin, dunque, si diceva, parola mia, Trump innocente. Trump in realtà anche qui fa come Salvini, perché utilizza l'impeachment, Salvini userà le sue inchieste contro di lui per compattare la sua base, si parla di un grande complotto ai suoi danni. Dopo il sì della Camera, la Speaker Pelosi rallenta il processo al Senato. Perché rallenta il processo al Senato? Perché c'è un personaggio che Mitch McConnell, che ha detto che lui comunque, a prescindere, boccerà l'impeachment. E allora Trump e l'impeachment, il senatore che smonterà il complotto dei Dem, complotto tra virgolette perché sono parole sue, il repubblicano senza remore, non assicura imparzialità sulla decisione di colpevolezza per reati contestati dal Presidente della Camera. Il magnate aveva bollato come buona nulla perché non aveva affondato la riforma sanitaria di Obama. Questo è Donald Trump, poi naturalmente non è un signore, come tutti sanno. Per esempio, la deputata ferita del primo Natale da vedova. È polemica per l'attacco rivolto a Donald Trump, leggo dal Corriere, a Debbie Mendingle, la deputata democratica del Michigan, che alla morte del marito John ha preso il posto suo alla Camera. Poco dopo il voto di Dingell a favore dell'impeachment, Trump ha ricordato che la deputata lo aveva ringraziato per il trattamento di Serie A con le bandiere a mezz'asta per la morte del marito, dicendogli: John ci guarda dall'alto, forse ci guarda dal basso, non so, ha aggiunto Trump, suggerendo che il marito sia all'inferno. A questo punto, naturalmente con questa delicatessen, i democratici sono imbizzarriti. Comunque, sentiamo allora un servizio che riguarda Trump e questo impeachment, e ne parla Giacomo Salvini, ironia della sorte, comunque no, lui è un giornalista che parla appunto di questo caso e cosa significa per l'America. Intanto bisogna capire cos'è l'impeachment, perché l'impeachment è una formula che abbiamo anche in Italia, ma in maniera un po' diversa. È un processo politico che hanno negli Stati Uniti di rimozione in qualche modo del Presidente degli Stati Uniti. A cosa si contesta tra il Presidente degli Stati Uniti Trump? Si contestano due cose, diciamo, i democratici hanno approvato una relazione che è di 658 pagine, quindi un bel malloppo, in cui ci sono due accuse. Da una parte c'è un abuso di potere, dall'altra l'ostruzione alla giustizia. Tutto nasce quando, per mano, diciamo così, di un whistleblower, cioè una talpa dei servizi di intelligence americani, che in pratica rivela di una telefonata che c'è stata partita dallo studio Ovale, quindi dalla Casa Bianca, tra Trump e il presidente ucraino Vladimir Zelensky, in cui praticamente Trump chiede a Zelensky di aprire un'indagine, quindi alla magistratura ucraina, di aprire un'indagine sul figlio di Joe Biden. Chi è Joe Biden? Joe Biden è l'ex vicepresidente degli Stati Uniti, vice di Barack Obama e attuale candidato dei democratici alle presidenziali del 2020. Hunter Biden, che sarebbe il figlio di Joe Biden, aveva avuto un incarico in una società ucraina e Trump chiede a Zelensky di aprire un'indagine su di lui, un'indagine che ovviamente avrebbe fatto molto scalpore, e gli pone una sorta di ricatto: se non lo fate, lui avrebbe bloccato 400 milioni di aiuti militari per l'Ucraina. E anche nella telefonata Trump pone come condizione, dice: se aprite l'indagine, Zelensky, tu puoi venire in visita ufficiale a Washington, cosa che appunto ovviamente il presidente ucraino avrebbe voluto fare anche, diciamo, per accreditarsi a livello internazionale. Poi in realtà questi 400 milioni di aiuti militari sono arrivati lo stesso, nonostante che l'Ucraina non abbia aperto alcuna indagine sul figlio di Biden. Però è chiaro che questa è la prima accusa, cioè una, diciamo, di abuso di potere. In italiano la definiremo una corruzione, anche se nel malloppo, diciamo, come dicevo prima, delle accuse nei confronti di Trump non c'è mai questa parola. L'altra accusa che viene fatta a Trump è l'ostruzione alla giustizia, cioè Trump, quando è emersa questa telefonata, avrebbe fatto in modo, cercato di fare tutti i modi per ostacolare l'indagine dei democratici, e quindi dicendo ai suoi esponenti dell'amministrazione di non collaborare nell'indagine, voleva fare uscire, diciamo, la lettera con cui si denunciava la telefonata e tutta un'altra serie di cosa che i democratici li contestano. Cosa è successo? I democratici hanno avviato alla Camera il processo di impeachment. Avviene in due fasi negli Stati Uniti. Prima parte alla Camera, che ha un'attività sostanzialmente distruttoria, quella che si è conclusa stanotte, nella notte tra mercoledì e giovedì, in cui i democratici hanno messo, la Camera ha messo sotto impeachment il presidente Trump, e poi adesso la parola passa al Senato, che invece è una vera e propria corte di giustizia, che quindi dovrà decidere, dovrà votare se dopo un dibattito che sarà presieduto dal giudice capo della Corte Suprema, se rimuovere o meno il presidente degli Stati Uniti in base alle accuse che gli vengono contestate. Ecco. 9:50 minuti primi, parallelismi quindi fra Salvini e Trump, che vi invitiamo anche a vedere e leggere sulla nostra pagina web www.radiocittafugico.it, dove c'è proprio in prima pagina ieri e oggi appunto questi articoli fatti dalla redazione giornalistica. Ma proseguiamo questo argomento perché c'è anche un commento su Repubblica a cura di Stefano Folli, che ha proprio questo titolo: Salvini imita Trump ma rischia molto di più, perché è lo stesso leader della Lega a suggerire, modestia a parte, il parallelo. Non si può negare in effetti qualche analogia nei modi e nei tempi dell'operazione. Nel merito, come sappiamo, gli addebiti non sono paragonabili, ma non è qui il punto. Il più interessante sono i risvolti politici, le accuse al Presidente degli Stati Uniti sono accuse appunto pesanti, tra le maggiori che si possono rivolgere al comandante in capo, ma a sostenerle sono solo i democratici. I repubblicani sono compatti sulla difesa del leader e non sembrano esistere argomentazioni abbastanza convincenti da far cambiare idea. Oltreoceano, Trump può persino trarre un vantaggio dall'impeachment tentato e non riuscito, simbolo di una debolezza dei democratici che sfruttano la carta giudiziaria per interrompere la stagione trumpiana. Tuttavia l'Italia, prosegue Stefano Folli, come sappiamo, non è l'America e certe analogie reggono fino a un certo punto. Qualcuno sostiene l'eventuale autorizzazione a procedere contro Salvini per il sequestro della nave Gregoretti darebbe al leghista lo slancio per vincere in Emilia-Romagna e in Calabria. In altre parole, un mini Trump che si giova degli autogol degli avversari. È possibile che questo accada, ma per ora la vicenda della nave sembra soprattutto una resa dei conti tra Lega e 5 Stelle, piuttosto disorientante. Sapere che Di Maio sostiene il processo a Salvini, in quanto il caso della Gregoretti a suo dire è diverso rispetto a quello della nave Diciotti, quando i 5 Stelle votarono contro l'autorizzazione a procedere per il allora alleato. E questo commento ci fa precipitare nella pagina Politica Italiana, che noi apriamo con un sondaggio ISPI abbastanza significativo. Crisi economica, clima e Cina, cosa preoccupa gli italiani? Crollano i timori per terrorismo e immigrati, a dimostrazione che i timori italiani li hanno creati i media. Adesso si parla meno di immigrati e meno di terrorismo, ma molto di clima, Cina e crisi economica. Tutti pensano, quelli sono i maggiori. Se domani parlassero di sonnambulismo, non so che cosa, tutti penserebbero sia sonnambulismo, eccetera. Ma l'ottimismo per la mobilitazione sull'ambiente viene registrato in questa indagine. Ma non ci si pensi che il razzismo, perché magari meno nei sondaggi, sia meno presente. Andiamo a Melegnano con la cronaca milanese. Famiglia ghanese bersaglio dei razzisti, insulti anonimi scritti sui foglietti, racconta Francesco Gastaldi dal Corriere di Milano. Negro, animali, andate fuori dai coglioni, biglietti anonimi con minacce e insulti contro una famiglia ghanese che da un paio di anni risiede in un condominio di Melegnano. Prima vivevamo a Milano e non avevamo mai avuto problemi, racconta Moses Adai, ma in provincia è diverso. Adai ha consegnato i biglietti dei carabinieri che gli hanno consigliato di rivolgersi ad un legale, mentre in parrocchia gli hanno suggerito di andare in comune. Ma è molto difficile ricevere sostegno, se le minacce continueranno cambieremo casa. Questa è la situazione che si vive sotto traccia, da dove magari i sondaggi non arrivano. Ma allora guardiamo invece dove arrivano i giornali. La cosa però non migliora. Vediamo Libero, per esempio. Governo allucinato, via libera alla droga. La Lega denuncia, la Lega come Putin, se dice una cosa deve essere assolutamente vera, non dice mai delle balle. I giallorossi pensano di riproporre la legalizzazione della cannabis leggera in un nuovo decreto spazzatura. La rivista di Burioni avverte molti rischi, giovani in pericolo. La rivista Burioni è un proibizionista di prima fila. Questo è quanto. Ancora, andiamo invece a l'altro titolo, effetto plastic tax, Coca-Cola, minaccia di chiudere una fabbrica al sud, quindi la colpa del governo. Questa è la curiosa interpretazione della verità di Libero. Ma andiamo al Messaggero invece, vediamo cosa sta succedendo. Niente alla luce del sole, evidentemente, perché la politica sarebbe una cosa bella se fosse luce del sole, in realtà è tutto un complottino contenente un altro complottino. Il Messaggero dice: prove di spallata al Senato, la Lega fa shopping di grillini, pronti altri 7. Quindi l'incoerenza della Lega di questi grillini è evidente, lineare. Manovre per nuova maggioranza a gennaio, caso Gregoretti, processo Salvini, scontro con Conte e Di Maio, dubbi renziani sull'ok ai PM, anche perché i renziani non pensare che domani la cosa passerà anche per loro. Ma al Mattino invece, il giornale di Napoli, abbiamo tagli, la rivolta degli scienziati. Sono più seri questi interventi che non quelli di Libero, La Verità o quant'altro. Ricercatori in rivolto, un colpo allo sviluppo, ballabio del TGM, così vincono le lobby. Il presidente dell'Accademia dei Lincei, politica ipocrita, il Sud paga il prezzo più alto in questo penalizzare il tema della scienza. Il Gazzettino torna su Salvini che cerca la spallata finale, altri 7 parlamentari 5 Stelle nel mirino della Lega. Naturalmente sarebbe del tutto da aprire un intervento di un qualche osservatorio o quant'altro, ma vabbè, chiudiamo pietosi la scena e aspettiamoci il peggio. Ipotesi voti invece tutti agitati verso il mille proroghe, slitter rincaro di pedaggi autostradali, una buona notizia per chi deve viaggiare in Natale, caso che Goretti e Salvini, scontro tra Lega e Palazzo Chigi. Questa è la carrellata di altre prime pagine, poi andiamo nelle pagine interne, andiamo a prescrizione, quindi tutte le cose che riguardano il governo in questo labirinto di polemiche e di scontri. Prescrizione, la spunta il 5 Stelle, non c'è l'intesa, c'è invece la riforma, dice il Manifesto, un altro vertice di maggioranza fallito, ma il 1 gennaio arriva lo stop, e così Bonafede festeggia dal Manifesto. Mentre andiamo a scuola, via i concorsi per 50.000, il decreto non risolve il precariato, i sindacati parlano di risorse limitate ma anche una visione strategica, quindi vediamo che più che una manovra piena di tasse, come dicono fraudolentemente le destre, è una manovra priva di contenuti, che è grave. Ma dall'altra parte, con l'eredità e le spade di Damocle di aumenti di IVA che gravano sull'Italia non solo per quest'anno ma anche per i prossimi anni, insomma ci vorrebbe più coraggio per fare cose diverse. Campagna per convincere Fioramonti per restare al MIUR. Fioramonti che peraltro in questo abbandono della cultura ha l'appoggio di Tommaso Montanari del Fatto Quotidiano, dice ha fatto benissimo perché la coerenza non è una merce di poco conto. Il Corriere della Sera va invece a se cade il governo si vota, e Zingaretti che avvisa gli alleati sulla nave dei migranti, scontro appunto tra Salvini e Di Maio, poi vedremo in particolare anche questa cosa. Il giornale ci dice che la prescrizione del PCC del 5 Stelle va all'incasso, stallo intercettazioni, ma sulla riforma elettorale che è legata poi al taglio dei deputati, che è legato al referendum perché ha raccolto le firme quelle di Forza Italia, legge elettorale già rinviata a gennaio, l'unico accordo è sul sistema proporzionale, il centrodestra scontro tra Lega e Meloni che la spinge per il maggioritario. Sì, Alfredo citava Salvini che fa shopping nel Movimento 5 Stelle, e c'è questa notizia ripresa dalla parte opposta, pagina 4 di Repubblica, di Giovanna Casadio, che dice che il Senato in bilico, i 5 Stelle contro Paragone. Gianluigi Paragone, ex giornalista, ora deputato dei 5 Stelle, porta i nostri senatori alla Lega. Questo è quello che dicono appunto dalla parte del Movimento 5 Stelle. C'è anche un'intervista. Di Maio è un leader deperito, appunto. Hanno distrutto il movimento, e anche qui c'è appunto l'intervista a Beppe Grillo, e gli dice c'è l'intervista a Gianluigi Paragone che dice Grillo è un leader vero ma dovrebbe girare le piazze e spiegare che ora è tutto cambiato. Ancora una notizia che riguarda la Banca Popolare di Bari. Il grande inganno ai risparmiatori, così la Popolare ha gonfiato le azioni, i vertici della banca conoscevano i rischi dell'acquisto di Tercas ma li hanno taciuti, a chi comprava appunto questi titoli e chi andava in banca per fare investimenti. E ancora si parla di politica e in tema di 5G. 5G è il nuovo sistema di trasferimento di dati, ma non, se ne parla per restringere le applicazioni, ma non perché sia dannoso alla salute, ma perché c'è un grande rischio di spionaggio. Lo dicono gli 007 italiani. Qua c'è un articolo a pagina 2 sulla Stampa di Francesco Grignetti che dice allarme Copasir, appunto i servizi segreti italiani, che dicono pericolo, dobbiamo escludere i cinesi dal 5G. Nel mirino c'è Huawei e ZTE. La sicurezza è il più importante del business. La replica, accuse motivate per ragioni geopolitiche. E c'è un suggerimento che arriva da parte degli USA, dice: le leggi escludono qualsiasi compagnia non affidabile. L'Inter è veloce, ci fa sapere Bruno Ruffilli, sempre dalle pagine della Stampa. L'internet veloce vale 6 miliardi l'anno, attenzione a queste cose. Naturalmente le preoccupazioni sui 5G sono tutte più che plausibili, ma non capisco perché sono inaffidabili quelle cinesi, sono buone quelle americane sulla sicurezza e sulla privacy. I però cinesi non devono spiare gli americani, sì. E questo è appartenere all'Occidente, insomma, il concetto. Ma veniamo al giornale. Di Maio minicchio, vergogna Grillino, il leader 5 Stelle accoltella Salvini, aveva detto processateci tutti. Immigrati, giudici con Carola, la racchete può tornare in mare. Quindi una giornata a mezz'asta, bandiera mezz'asta per la destra. E infatti anche la verità, Di Maio trova lavoro tassista del mare. Caso Diciotti e caso Grigoretti sono identici. Mosse per ostacolare gli scafisti e ottenere la collaborazione dell'Europa, ma il leader, quindi tenere in ostaggio le persone, ma il leader 5 Stelle, che aveva condiviso il primo blocco, vuole che si processi Salvini per sequestro di persona per il secondo. Che farà Italia Viva se la verità si confida in Matteo Renzi, che si è detto dubbioso su questo voto a livello del Consiglio dei Ministri, del Tribunale dei Ministri, ma dice peraltro, dice ora anche Bergoglio va all'attacco, fermate, non fermate quelle navi, dice la verità, che mette Bergoglio, pare di Carola Rackete tra i nemici. E allora leggiamo l'Avvenire, invece, che è tra gli amici di Bergoglio, va da sé come giornale cattolico. Il Papa, svuotiamo i campi della Libia. Questa è l'apertura di oggi dell'Avvenire. Leggiamo che dice ancora le terre, la nostra logica è aprire aperta l'accoglienza. Questo è appunto lo spirito del giorno, del foglio dell'Avvenire. Invece lo spirito del manifesto è capitano di sventura. Il caso nave Grigoretti mai discusso in CDM. Dopo Di Maio anche Conte scarica Salvini. Evidentemente Salvini in un crescendo di megalomania. La prima volta ha cercato la copertura in Consiglio Ministro, la seconda volta ha fatto da solo per non condividere con nessuno la gloria di questo sequestro di persone. Scontro al veleno tra gli ex alleati. Sul processo all'ex ministro per sequestro di persone, la giunta per l'autorizzazione decide il 20 di gennaio. Il Papa, appunto, che qua viene ricordato, l'immigrazione non si ferma con i blocchi. Ma Salvini, dicevamo, fa come Trump, anche lui incita alla base, lui è la vittima, non il carnefice. Io processo i milioni con me, quindi dobbiamo trovare un'aula bunker molto spaziosa. Di Maio, il premier, onore perduto. Il leader leghista interpellato, intervistato da Marco Cremonesi, una lunga pagina del Corriere. Luigi ha messo tutta la dignità nel suo decreto, dopo Conte c'è solo il voto, dice anche il PD, appunto, se cade il governo si vota. Ma su Salvini, poi abbiamo Salvini su Carola Rackete, la cattiveria di Spinotta dal Fatto Quotidiano. Sfrutta i migranti per fare politica, violando la sua esclusiva. Questo è. E mentre secondo Matteo, Marco Travaglio ricorda che Salvini querela tutti, ma perde tutte le battaglie in tribunale, perché dice è un cassaro e perde, è un imbroglione e perde. Insomma, allora vediamo cosa ha perso oggi. E siamo a 6 in meno di un mese. Così quello annunciato ieri, Urbi Torbi, le cose civili scagliate dallo stalker di Rignano sull'Arno contro il fatto che il sottoscritto del 26 novembre oggi ammontano a 6. Forse appunto che è arrivato a quota 10. Riceverà in premio una bambolina, o forse per infranto il record precedentemente detenuto da Berlusconi e Salvini vuol battere anche quello della presidente e avvocata senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati, Serbelloni, Mastanti, Vien dal Mare. E questo è il quadro che arriva dalle varie cause, da Renzi a Casellati a Salvini, contro il Fatto Quotidiano. Nel frattempo Forza Italia vive momenti non complessi, per cui la Carfagna battezza oggi Voce Libera Corrente Anticrisi, movimenti che tra i 5 Stelle si organizza l'area propri di, cioè quei cosiddetti contiani si scenderebbero da 5 Stelle filo Conte, ma 5 Stelle la prenderebbero male, quindi come la prenderebbero per la tenuta del governo? È una domanda, anche se Conte ha detto nessuno faccia scissioni in nome di me, che sembra quasi una cosa biblica, invece è molto più pedestre. Poi abbiamo invece altri spunti. Il Fatto Quotidiano parla dei 5 Stelle, per l'appunto, e allora andiamo a vedere di cosa si tratta. In sesta pagina abbiamo 5 Stelle allarma la Camera, Contiani vicino allo strappo, per l'appunto. Le riunioni in un incontro segreto, finiti i tempi dello streaming aperto a tutti, fai gli incontri segreti però con le veline passate ai giornali. In un incontro segreto i vertici del movimento hanno discusso il rischio scissione. A Montecitorio il siciliano Tristino, deputato 5 Stelle, spinge per un nuovo gruppo che risponda al premier, contattati a 5 Stelle e il ministro Fioramonte, appunto, che si è rimesso dal MIUR. Sì, 10.04 minuti primi, voltiamo pagina, parliamo di ambiente e iniziamo con il dossier pubblicato sul Sole 24 Ore sugli immobili, e ci dice che su 11,9 milioni di edifici in Italia 645.000 sono pochi e sono quelli realizzati dopo il 2000, 3,5 milioni prima del 1945. Sono quasi tutti esposti al rischio terremoto e il 90% degli appartamenti è in una classe energetica a basso rendimento. Abbiamo degli appartamenti, in parole povere, che sono dei colabrodi a livello di contenimento e risparmio energetico. Savorani dice che per far fruttare le misure è necessario che le famiglie siano consapevoli dei vantaggi che offre la una nuova manovra di bilancio, grandi potenzialità dagli esterni ventilati che risolvono il problema dell'efficientamento e della manutenzione. E si parla anche, oltre che di edilizia, anche di sanitari, e sarebbe possibile risparmiare oltre 400 milioni di euro all'anno sostituendo sanitari e lavandini e acqua potabile con nuovi impianti a più alto efficientamento. Eravamo dentro le pagine del Sole di 24 Ore di quest'oggi. E ancora notizie sull'ambiente, le andiamo a prendere dalle pagine invece della Stampa, che ci propone un reportage di Niccolò Zancan attorno al polo chimico di Spinetta in provincia di Alessandria. Ci sono il 30% in più di malati di cancro. Adesso non è più possibile fare finta di niente. Ricordo quando gli acidi che si spandevano nel polo chimico scioglievano le grondaie delle nostre case, ricorda in un'intervista al dopolavoro dell'ex manutenzione Luigi Pozzi. Ogni due anni quelli del polo chimico davano agli abitanti soldi per poter cambiare le grondaie e molti di noi, invece di riconoscere la gravità della situazione, ringraziavano per l'aiuto e dicevano: hai visto, sono gentili, garantiscono il lavoro e cambiano le grondaie. Non è più tempo di mentire a se stessi. Nel giro di due settimane in questo sobborgo di Alessandria 12.000 abitanti sono diventati ufficiale la verità, riconoscere che la presenza del rischio cancro è molto molto molto maggiore. Abbiamo parlato nei giorni scorsi, cambiamo argomento, parliamo di turismo, abbiamo parlato di Venezia e abbiamo scoperto che questi gravi episodi di acqua alta hanno causato un forte calo dei turisti e di prenotazioni per queste feste natalizie per Venezia, e Venezia si sta rivalutando nelle isole minori con turismo slow, storia locale e agricoltura bio. Appunto un altro articolo molto interessante di Michele Sasso, appunto inviato da Venezia, che fa un reportage appunto su questa nuova modalità di turismo in quello di Venezia. E parliamo del Natale triste di Taranto, intossicato da diossina, dalla demagogia, le scuole chiuse per inquinamento, migliaia di posti di lavoro a rischio. Quindi ancora una volta, non intervenendo mai, alla fine si trova di fronte alla scelta: o perdi posti di lavoro o perdi polmoni, che è una scelta che non ha soluzione. Bisogna intervenire prima, il tempo c'è stato come per intervenire. Ma il marinaro di Confindustria su Taranto non fa nessuna autocritica al mondo imprenditoriale. Il 2015 fu un bagno di sangue, temiamo la nuova compagine con lo Stato dentro ci faccia lo stesso scherzo. Mentre Francesca Martinese, che abita nel quartiere Tamburi, adiacente all'Ilva di Taranto, il PIL non vale la vita dei bambini, spende un sacco di soldi in medicine per la bimba più piccola che respira male. Questo è quanto. A Bologna invece si parla di tram via Indipendenza pedonale. Ogni giorno circoleranno solo mezzi pubblici, bici pedoni, il via quando entrerà in funzione la linea rossa. Auto e taxi fuori dalla via dello shopping 7 giorni su 7. Al via con l'attivazione della linea rossa in zona Riva di Reno salteranno 200 parcheggi. Proposta la costruzione di una struttura interrata. Ce lo chiede il progetto di fattibilità, il Reno tornerà a far bello la mostra di sé tra via Lame e il Paladozzo, quindi si vedrà di nuovo il fiume. Il referendum sull'opera alle comunali del 2021, l'assessore Priolo rivendica la scelta politica, Merola è stato eletto per questo, contrario a Bernini di Forza Italia, nessun voto autorizzato l'infrastruttura. Peraltro poi leggiamo che a parte della destra Bologna, Fratelli d'Italia nel caos, perché raffiche di dimissioni accuse da Forlì, perché gli, dicono, gli ultimi arrivati ci hanno sorpassato, dicono quelli che hanno fatto il partito al suo tempo, ma nel mirino l'ex ruolo dell'ex fratello Bignami, ma almeno non è con lui, quindi questa è una. L'altra parte è la scelta di Stefano Bulgarelli, figlio di Giacomo Bulgarelli, campione del Bologna, che dopo aver detto che Bulgarelli, il babbo, era dell'MSI, è arrabbiatissimo perché gli danno i biglietti allo stadio. Questa è la motivazione. Oggi però Fernando Pellerano va a fondo di questa vicenda. Giacomo, l'MSI Bologna spiazzata, aveva tanti amici a destra e a sinistra, mamma Carla, gli altri figli, con noi la città di Bologna ci comporta sempre benissimo e quando chiediamo gli ingressi allo stadio li riceviamo. Si vede che Stefano Bulgarelli non è molto amato. Comunque dice anche il Corriere, l'indipendenza sarà pedonale, torniamo al discorso del tram, ci passerà dunque l'autobus con le rotaie e sarà chiusa le auto 7 giorni su 7. I lavori partiranno nel 2022 in omaggio anche Lucio Dalla con la sua fermata del tram. Ascolti mia cara, sembra che tutto proceda a dovere, che dietro ogni autunno vada in orario l'inverno, che la neve chiuda ogni stagione di sole, solo perché camminano i tram. Ascolti mia cara, il tuo nome è Speranza, un nome simbolico e folle per questa vita che invece molte luci non ha. Probabile ad ogni momento una tempesta di vento o che una mano di ferro ci tocchi la spalla. Corriamo, buttiamo la palla lontano, viviamo, proceda a dovere, che tutte le cose ricevano un nome e non un bel fiume Alla fermata del treno Lucio Dalla, ma parlando di ambiente si è sempre sospetto, ma non è che questa mancata progettazione in Italia o queste scelte assolutamente incomprensibili madornali come il Mose, la Val di Susa, non venga dettate da governi più o meno improvvidi, ma da mafia, 'ndrangheta, camorre, massonerie varie? E allora abbiamo il governissimo dell'andrangheta, Parian della Retata, lo facciamo con il Fatto Quotidiano in prima pagina, blitz del PM Gratteri come il maxi processo di Palermo, Calabria smontata come il Lego, 334 arrestati tra cui pittelli di Forza Italia, mafiosi, massoni, carabinieri, imprenditori, tra cui tra i 146 indagati con politici di destra del PD, col solito Adamo, e il partito, che è un personaggio sempre discucchiacchierato, è il partito trasversale che da sempre strangola la regione. E allora c'è questa intercettazione, quel politico per me si butta da un ponte, gli eletti gestiti dai clan, allora si capisce anche certe scelte ambientali, di lavoro o di altro. I rapporti con il io ho spostato 5.000 voti, che fanno le elezioni evidentemente, i rapporti di boss con diversi schieramenti, i favori, se lo raccomandiamo resta a disposizione, che quando ti serve una carta te la fa subito. Questo è il eletto pronto cassa. Dice la notizia dal PD ai Fratelli d'Italia, il Gratteri scoperchi i legami tra 'ndrangheta e politica, si erge a difesa di tutti questi il riformista di Sansonetti sopracitato, Gratteri resta la metà Calabria, giustizia no, è solo show. Oddio, c'è anche qualcos'altro in più, però comunque non stupisce Sansonetti, che ricordiamo una volta compagno di banca, compagno di niente, era direttore di Liberazione, adesso fa direttore di giornali abbastanza discutibili. Su questa cosa di Gratteri ieri nelle interviste era parecchio soddisfatto, per cui questa è una grande operazione di polizia, infatti la maxi operazione contro le cosche nel Vibonese, nella provincia di Vibo Valentia, è la più grande di sempre, questo lo dice il procuratore Nicola Gratteri, è regione da smontare e rimontare come un Lego, e fra pizzini e messaggi e cose in codice con i computer hanno sventato in un'operazione che durava da più di 2 anni una cosca mafiosa. C'è anche un articolo di Maria Rosa Tomasello nelle pagine della Stampa che riguarda l'ex senatore di Forza Italia Giancarlo Pittelli, che apriva le porte ai mafiosi. L'accusa è dedizione assoluta all'organizzazione e ai rapporti con il potere. Se ne parla persino sul Resto del Carlino, di 'ndrangheta e di grande operazione. Droga, appalti, intrecci politici, la Retata del Secolo, 334 arresti, coinvolti appunto un ex parlamentare, presidente dei sindaci calabresi e altri politici e anche un magistrato. Oggi è una giornata storica, ci dice Alessandro Farrugia, la giunta a conclusione di un'indagine nata il giorno dell'insediamento che corona uno dei sogni che avevo, smontare in Calabria come un treno dei Lego e rimontarlo piano piano. Così il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri ha commentato l'operazione Rinascita Scott, condotta ieri da 3.000 carabinieri per eseguire 334 ordinanze e 260 in carcere, 70 ai domiciliari e 4 divieti di dimora. A proposito, soldi svizzera mai tornati, arriva la lista di 200.000, che non sono pochi. Patrizia De Rubertis dal Fatto Quotidiano sulla lotta all'evasione. Berna sta inviando a Roma i dati degli italiani che non hanno aderito al condono e che evidentemente hanno qualche segreto nell'armadio. Le verifiche allora partiranno, il fisco ora potrebbe, e qui il condizionale d'obbligo, perché mai fosse che fosse la volta buona, recuperare 1 miliardo evaso tra febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016. L'ultima lista, la cooperazione con la Confederazione arriva dopo i Panama Papers, Falciani e l'accordo dell'UBS, la banca appunto in corso. E parliamo invece di donne, prima partiamo dal Giappone. Giappone, la vittoria di Ito e del hashtag MeToo. Nel 2015 fu stupro, racconta Stefano Lippello dal Manifesto. Un tribunale civile condanna il giornalista TV che violentò la freelance, umiliata prima dalla polizia e poi dai conservatori. Il suo caso ha dato coraggio ad altre donne. La blanda legge sulle violenze sessuali è stata riformata nel 2018. Un viceministro si è dimesso per la molestia ad una reporter. Questo è quanto. A casa nostra invece, ahimè, continuano i femminicidi. fanno più neanche notizie minimamente. Per esempio Ravenna, trafiletto del Corriere della Sera, pagina 21, strangola la moglie mentre le figlie dormono. Questo è quanto, oppure ha più evidenza questa notizia, anche perché c'è un elemento anche da teatro dell'orrore, il giallo della donna nella valigia, un omicidio senza colpevole, Vercelli, cadavere di Franca Musso, 54 anni, trovato 2 anni fa, inchiesta archiviata. Poi invece passiamo a Lui ha visto la luce, parliamo di Lapo, Lapo della casa Tagnelli. Lapo, l'incidente, il coma, ora voglio fare del bene. Si vede che prima faceva qualcos'altro. Il nipote, l'avvocato, vittima di un grave sinistro a Tel Aviv, pronto a cambiare, grazie a Dio e medici. Non so, potrei dire grazie a medici e Dio, invece mi sono Dio per primo, perché è chiaro che... Ed eccolo qua che per fare del bene, col suo bel rutilante vestito rosso, con pettino rosso, pubblicizza la 500 turchina. Sì, direi di a questo punto 10 e 20 di arrivare a notizie che riguardano più da vicino Bologna e citare la lettera che i 4 ragazzi ideatori delle sardine Made in Bologna hanno scritto a Repubblica, e che Repubblica si vanta e riprende con un paio di pagine delle prime notizie. Appunto parte dalla storia con Ilaria Venturi, che dice: tutto comincia con un post su Facebook, e poi dice: noi sardine la libertà di non fare un partito, e ci sono appunto la fotonotizia con i 4 ragazzi, Mattia Santori, Giulia Trappoloni, Roberto Morotti e Andrea Garreffa. La stagione, dice, la forza è stata collegare il virtuale al reale, non c'era niente di meglio che favorire la nascita di un fenomeno sociale fatto di persone vere. Tutto sta nel mantenere, proteggere e curare quel dialogo che ci ha permesso di vivere e condividere queste settimane. Le sardine, dice, non esistono, non sono mai esistite, sono state solo un pretesto, potevano essere storioni, salmoni, stambecchi. E di questo avevamo il sospetto, o anche cinghiali, ma il vero problema era che era una pentola che stava per scoppiare, poteva scoppiare e lasciare tutti scottati, e le sardine hanno permesso di scendere in piazza semplicemente per fischiare. Ancora notizie sempre dal locale, citava il tram appunto Alfredo, Salvini con Lucia Borgonzoni sono arrivati zitti e muti in piazza per paura delle sardine. E ancora notizie di cronaca sul Carlino, una questione locale che riguarda Bagnacavallo, cioè una coppia, lui a letto litiga con la moglie e poi la strangola, l'omicidio nel cuore della notte con le bimbe che dormivano nell'altra stanza, la coppia in crisi era in terapia da uno psicologo. Attenzione, e un'altra cosa a livello locale che volevo segnalarvi è il museo di Villanova di Castenaso, dove saranno esposti nuovi reperti ritrovati nella necropoli di Marano dell'età del ferro, e l'inaugurazione appunto di questa nuova parte del museo con un concerto etrusco di Capodanno. Allora si diceva che Salvini ha sorpreso sul Crescentone, conferma anche il Corriere della Sera oltre che il Carlino, oltre che la Repubblica. Bonaccini dice: teme le sardine, ma lui amo questa piazza. Blitz con Lucia Borgonzoni per fare dello shopping, questa è la motivazione ufficiale. Allora noi, visto che abbiamo uno scampo di tempo, abbiamo di richiamare a Salvini ancora un po' d'attenzione con l'ultima intervista. Abbiamo Luca Masero dell'Associazione Studi Giudici sull'Immigrazione, torna sull'affare della nave di Sotti. Sentiamo il suo commento. Con questo vi salutiamo, appuntamento domani, sempre a stessa ora, ciao a tutti. A domani. Sicuramente ci sono delle analogie, perché il caso fa sempre riferimento al trattenimento di diversi stranieri su una nave militare italiana, a cui il Ministero dell'Interno, per in questo caso nella Gregoretti 4 giorni, aveva negato l'accesso a sbarcare i migranti soccorsi in mare, e questo è l'aspetto di similitudine tra le due vicende. La diversità però può essere una diversità rilevante, perché il Senato, nel caso di Ciotti, aveva negato l'autorizzazione a procedere sulla base sostanzialmente di due argomenti. Il primo, che era stata una scelta collegiale di tutto il governo, quella del trattenimento, e il secondo argomento è che il trattenimento era funzionale ad una trattativa in corso in sede europea per la redistribuzione dei migranti. Ecco, queste due condizioni in questa situazione effettivamente sembrano porsi in modo diverso, perché l'accordo per la redistribuzione nell'estate di quest'anno c'era già stato e quindi non era in corso una trattativa con gli stati europei, e d'altra parte la decisione non era stata una decisione collegiale ma era stata una decisione del ministro, che in quella fase era già una fase di difficoltà nei rapporti della compagine ministeriale, eravamo vicini alla crisi insomma. Questa è l'argomentazione che ha detto ieri sera Luigi Di Maio, insomma, che era ministro ovviamente di quel governo. Effettivamente pongo in luce due elementi importanti da tenere in considerazione. Poi per quanto mi riguarda personalmente, io avevo anche espresso una valutazione critica nei confronti della decisione nel caso di Ciotti, io come molti altri giuristi, in quanto avevamo dei dubbi che un interesse politico potesse rendere legittimo la commissione di un reato come il sequestro di persona. Ma a prescindere da questi aspetti, effettivamente gli elementi di diversità posti in luce da Di Maio mi sembrano corrispondere alla realtà. Anche in questo caso però Salvini sostiene di avere fatto queste scelte per difendere i confini, insomma, del paese. Questa argomentazione può reggere? Ma in questi termini così generici direi proprio di no, perché difendere i confini del paese bloccando per 4 giorni decine di migranti mi sembra effettivamente un'affermazione propagandistica, ma che non regge ad un'analisi un pochino più approfondita della questione. Il tema è capire quale fosse in concreto, al di là dell'aspetto generico controllo dei confini, l'interesse che si voleva perseguire nel caso specifico. Nel caso della Ricciotti si era detto questo interesse, quello, ripeto, a forzare gli altri stati europei ad accogliere i migranti. In questo caso questo scopo non era più da perseguire, perché era già stato raggiunto, perché c'era già un accordo per la distribuzione. Andranno accertati questi elementi in sede di discussione al Senato e in giunta, ma sicuramente sono elementi significativi. Il fatto che la Gregoretti così come la Diciotti siano navi della Guardia Costiera, quindi insomma navi dello Stato, e quindi siano, se non sbaglio, considerate suolo italiano, gioca un ruolo? Sicuramente sì, e infatti è significativo che ci sono stati moltissimi casi di blocco sulle navi dei soccorritori, ma la magistratura abbia chiesto l'autorizzazione a procedere, fino adesso almeno, solo nei casi in cui erano navi militari italiane, quello su cui erano trattenuti i migranti, perché questo, come diceva lei, rende sicuramente più facile risolvere il problema della giurisdizione italiana, che non è in discussione, mentre nel caso dell'ONG può essere più discutibile, anche se non è affatto detto che non ci possano essere casi di richiesta di autorizzazione a procedere anche per blocco sull'ONG, però sicuramente il problema è più complesso. Visto che abbiamo evocato, no, nel caso della Diciotti la trattativa con l'Europa, ecco, uno strumento consono questo? Io direi proprio di no, era il discorso che stavo facendo prima. A me non aveva affatto convinto la soluzione della Diciotti, perché in sostanza il Senato aveva affermato che per ottenere un risultato politico era consentito strumentalizzare delle persone, la vita di delle persone, e sottoporla a delle sofferenze del tutto inutili, quali sono quelle conseguenti al trattenimento. Quindi già questo a monte era un problema sicuramente significativo. Si può legittimare l'uso strumentale delle persone per raggiungere dei fini politici? Io credo di no. Nel caso della Gregoretti però, ripeto, il problema si pone ancora in termini diversi, perché non c'era neanche questo obiettivo politico, ma l'obiettivo era semplicemente l'obiettivo propagandistico di sostenere il rigore della politica dei porti chiusi, perché l'obiettivo che perseguiva Salvini in sostanza era semplicemente questo.